cammello alle macchine, Walt Disney, la fine del mondo. Yo, yo, yo. Posso essere distrutta da una forza oscura, preferisco la paura, odio come aria pura il mare che si oscura, coperto da nube viola, sicura di non vedere un'alba nuova, la mia mente cova piccoli istinti, suicidi, momenti intensi di crisi, tremore mentre scrivi, pensi a quel che provi, guardi strade vuote, qualcosa si muove, ma loro non hanno nome. Vie deserte, asfalto crepato, salgo su un muro crollato, solcato da qualcosa di non umano che cammina piano. Idiozia dell'essere umano, creato da uno scienziato, da un esperimento sbagliato. Mi trovo una foto dal bordo sciolto, sgarrito l'orgoglio di giorni passati, china sul foglio. Ricordo di un pianeta ormai prossimo al crollo, unica testimone della fine del mondo. Il cielo si crepa, il sole si spegne, l'acqua come ghiaccio, la paura ti acceca la mente, il mare si asciuga, il mondo si spegne, resto sola ad aspettare la venuta del niente. Il cielo si crepa, il sole si spegne, l'acqua come ghiaccio, la paura ti acceca la mente, il mare si asciuga, il mondo si spegne, resto sola ad aspettare la venuta del niente. Cielo senza stelle da colori fluorescenti, spenti lampioni, cadaveri putrescenti, li senti, stanno venendo a prendermi. Meglio morire ora con il cuore in frammenti, sentimenti differenti, la speranza è inerme, la luce abbandona il creato, l'ultimo fiore si spegne, un silenzio orrendo nella notte si disperde, la fine vicina pronta ad accogliere il niente. Il suono che conosco è solo il battito del cuore che scandisce i secondi, i minuti, le ore, l'attesa di chi muore, l'illusione vola altrove, sopraffatta dal destino, non mi spezza la voce, rumore assordante, improvvisa luce abbagliante, atomo che pulsa sull'artiglieria pesante, lascio queste lande prima il tutto dopo il niente, qui cala il sipario su un pianeta che si spegne. Il cielo si crepa, il sole si spegne, l'acqua come ghiaccio, la paura ti acceca la mente, il mare si asciuga, il mondo si spegne, resto sola ad aspettare la venuta del niente. Il cielo si crepa, il sole si spegne, l'acqua come ghiaccio, la paura ti acceca la mente, il mare si asciuga, il mondo si spegne, resto sola ad aspettare la venuta del niente.